Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuovo appuntamento con il mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Siamo verso la conclusione del nostro percorso per gli studenti. L'anno scolastico per quasi tutti gli studenti è già concluso, esclusi coloro che in questi giorni stanno affrontando gli esami nei vari gradi scuola. La settimana prossima avremo alcune studentesse in studio che racconteranno esperienze scolastiche e parascolastiche, ma con Don Edmondo Lanciarotta, che è nostro ospite, ben trovato. Bentrovati a tutti, grazie della vostra accoglienza. Facciamo un po' il bilancio dell'anno, insomma, come usiamo fare con questa trasmissione, che adesso non mi ricordo, anche quando non si chiamava Dal mondo della scuola, ma credo abbia 8 anni. Caro Mirko, tu hai la memoria corta. Io ho la memoria corta e forse un'età abbastanza bassa. Ecco, proprio sono 23 anni. Ah, ecco, 23. 23 quindi. Anni che prima c'era Radio Vita. Certo, a Radio Treviso, Vita, sì. Ecco, abbiamo iniziato questo programma e poi ho preso Blu Radio Veneto. E il motivo di questo trasmissione è per tentativo di seguire il cammino della scuola, di accompagnare il percorso scolastico, di ascoltare il mondo della scuola, perché riteniamo come Chiesa che sia un mondo vivo, un mondo dove si vivono le speranze, le attese, le sofferenze, le gioie delle giovani generazioni, e quindi è un cammino con l'uomo, e la Chiesa è invitata appunto ad ascoltare e ad accompagnare l'uomo, e noi tentativo accompagnare l'uomo che vive la scuola. Nata questa trasmissione quando ancora non esisteva formalmente la parità scolastica, quindi in tempi ancora forse diversamente difficili rispetto ad adesso. Sì, sotto questo aspetto qui sì, ma dove noi appunto l'obiettivo era quello di abbracciare tutta la scuola, tutto il mondo dell'istruzione, tutto il mondo della formazione, anche professionale, tutto quel percorso educativo che riteniamo importante per la formazione dei giovani, ecco, che sono il futuro dell'umanità. E sotto questo aspetto qui abbiamo cercato anche, da questi microfoni, di offrire lo spazio perché i protagonisti avessero voce in capitolo, potessero essere ascoltati, e quindi grazie anche alla vostra disponibilità questo è anche avvenuto. Non so se con sempre qualità delle trasmissioni o sempre anche efficacia degli argomenti, perché fa parte un po' anche della vita, la scuola. Insomma. Beh, sai, noi seminiamo, poi il seme evangelicamente dove cade, poi non dipende dal seminatore se il seme dia frutto, ma dal terreno che lo accoglie anche. Certamente, poi le tematiche che abbiamo affrontato sono oltre che quelle della riforma complessa, ecco, dei tentativi di riforma, degli abbozzi di riforma, e che comunque la scuola è andata avanti ogni anno. Ho cercato un po' di affrontare la tematica della cittadinanza, della legalità, l'orientamento, la qualità, con le tematiche dell'autonomia, della sussidiarietà, ecco, cercando un po' di evidenziare anche esperienze buone pratiche, e mettendo insieme anche esperienze diverse, ecco, in reti di scuole, in reti di associazioni, in reti di organismi associativi, facendo in modo che i protagonisti, ecco, si sentissero stimolati e potessero anche offrire all'opinione pubblica anche degli aspetti, delle esperienze positive. Cito anche i genitori, perché insomma anche i genitori c'entrano nella scuola, è come se c'entrano. E li abbiamo chiamati tante volte, infatti, da questi microfoni, e uno dei punti fondamentali della nostra riflessione anche da questi microfoni è, abbiamo ribadito tante volte, la priorità, il primato educativo della famiglia, e quindi tutte le altre agenzie, la scuola in primis, sono a supporto, in aiuto, pur mantenendo lo specifico. E allora abbiamo cercato un po' di evidenziare questo, sostenendo, ecco, la famiglia, che per certi aspetti, come del resto tutte le agenzie, sono in crisi in questa fase ultima. Allora ribadendo la centralità e la priorità, e poi l'altro aspetto, l'importanza della libertà di scelta educativa, oltre che da parte dei docenti nell'insegnamento, appunto anche dei genitori, di scegliere. Però il problema è che se non ci sono possibilità di scelte, o se le famiglie non sono messe in grado di fare la scelta, e qui apre la questione della parità, ecco che allora abbiamo detto che la società e la politica e la nostra realtà culturale è impoverita, perché dietro a una apparente proposta di pubblico come apertura, ecco, si nasconde invece una chiusura, un centralismo, una visione monolitica e una non offerta plurale, appunto, di queste proposte educative dentro il cosiddetto sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, che appunto è lo Stato che stabilisce le regole. Però non può lo Stato essere l'unico gestore delle scuole, ma deve creare le condizioni perché la pluralità della società nostra possa trovare anche pluralità di cammini formativi. Storicamente lo Stato non lo è, perché le comunità cristiane, soprattutto in Veneto, insomma, hanno cominciato prima a occuparsi di educazione. Facciamo una prima pausa e poi ripartiamo appunto dal panorama nazionale con le novità in vista e in cantiere per i prossimi mesi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Diventai grande in un tempo piccolo, mi buttai dal letto per sentirmi libero, vestendomi in fretta per non fare caso a tutto quello che avrei lasciato. Scesi per la strada e mi mischiai al traffico, rotolai in salita come fossi magico, toccando terra rimanendo in bilico. Diventai un albero per oscillare, spostai lo sguardo per mirare altrove, cercando un modo per dimenticare. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. Poi pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come a una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Ma non scordai di certo un amore folle in un tempo piccolo. Ingannai il dolore con del vino rosso, buttando il cuore in qualunque posto. Mi addormentai con un vecchio disco, tra pensieri che non riferisco, chiudendo i dubbi in un pasto misto. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. Poi pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Ma non scordai di certo un amore folle in un tempo piccolo. Il rischio poi di rinascere sotto le stelle, ma non scordai di certo un amore folle in un tempo piccolo. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, la penultima di questa stagione, con Don Edmondo Lanciarotta stiamo facendo un bilancio, ma con i bilanci si tracciano anche le prospettive e le linee per il prossimo periodo. Partiamo, Don Edmondo, dal livello nazionale. Qualche settimana fa abbiamo parlato e raccontato dell'incontro di Roma, che ha messo già dei paletti, insomma, un percorso tracciato abbastanza lungo. Sì, per volontà della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana si è avviato un processo, o meglio un percorso, un'iniziativa chiamata la Chiesa per la Scuola, con un laboratorio che è stato appunto realizzato, ma in vista appunto di altri appuntamenti a livello nazionale, prossimo autunno a Torino, nella Settimana Sociale dei Cristiani, dove ci sarà un capitolo specifico sulla scuola. E poi incontri a livello anche delle singole conferenze episcopali regionali per promuovere questo percorso, per sostenere questo percorso, per in maniera tale da giungere adeguatamente preparati a un evento di popolo, una grande manifestazione pubblica prevista nella primavera del 2014, sperando anche di avere presente il Papa, in cui la Chiesa italiana pone al centro la questione, la risorsa dell'educazione nella scuola, quindi la scuola come luogo educativo, la scuola come comunità educativa, in dialogo con le altre realtà educative a partire dalla famiglia, per realizzare quello che anche l'Europa da tempo ribadisce: una comunità educativa, una comunità della conoscenza, una comunità capace di educare. Ricordiamo che la Conferenza Episcopale ha proposto, no? In questo decennio, il decennio dell'educazione, però non è solamente la comunità ecclesiale italiana, è anche l'Europa che ha ribadito questo decennio come impegno prioritario sull'educazione. Quindi, sotto questo aspetto qui, questo percorso è avviato e speriamo che possa portare anche buon frutto. Appuntamento in primavera, se non ricordo male, a Firenze? No, quello no. Di Firenze è del 2015. Ah, ecco, vedi, siamo 2015. Ancora più avanti. Sì, poi in vista del convegno ecclesiale nazionale, che lo scorso decennio, se chi si ricorda, era stato a Verona del 2006, sì. Adesso sarà del 2015 a Firenze, dove appunto all'interno del percorso del decennio sull'educazione verrà dato uno spazio anche alle istituzioni, in particolare in questo caso anche la scuola. Ma questo del prossimo anno è in vista anche di questo, quindi un grande evento in cui si cerca di affrontare alcune questioni, quello dell'autonomia, quello della sussidiarietà, quello della scuola come comunità, quello delle sfide a livello europeo, quello di creare le condizioni perché ci sia la trasmissione tra generazioni dei valori, ecco, che per certi aspetti sentiamo una grande fatica, una grande difficoltà in questi ultimi anni vediamo anche a livello anche della comunità cristiana la difficoltà di trasmettere, no, i valori, di trasmettere i principi, di trasmettere appunto l'educazione alle giovani generazioni. E sotto questo aspetto qui un punto fondamentale, un obiettivo fondamentale è quello che gli orientamenti ribadiscono e che anche Cardinal Bagnasco ha sottolineato in quella giornata di apertura che si diceva prima a Roma il 3-4 di maggio, la costituzione, la creazione di alleanze educative. Ecco, nel mondo della scuola queste alleanze educative noi le abbiamo chiamate, ecco, la legislazione le chiama patto di corresponsabilità educativa territoriale. Patto di corresponsabilità educativa territoriale, i nostri vescovi chiamano creare alleanze educative con i soggetti presenti nel territorio. Dunque l'appuntamento primavera 2014 e poi nel 2015, quindi un percorso già tracciato di media lunghezza a livello nazionale, soffermandoci invece sul nord Italia che ha delle sue specificità evidentemente anche sotto il punto di vista dell'educazione, sì. Cosa possiamo dire? Ecco, noi abbiamo avviato in questi ultimi anni anche un dialogo con delle conferenze episcopali del Triveneto insieme anche con quelle del nord Italia. Continuiamo questo dialogo ed è prevista per il 6 di luglio prossimo a Bergamo un seminario di studio, non un convegno, un seminario con gli addetti ai lavori. E chi sono? Sono i responsabili delle conferenze episcopali riguardanti scuole, educazione, università, ecco, delle regioni del nord, alcuni assessori regionali delle regioni interessate in ambito di educazione e di formazione, alcuni responsabili nell'ambito sindacale e politico, per riflettere insieme su alcune di quelle realtà che costituiscono il mondo complesso della scuola e della formazione. Quindi discuteremo su l'autonomia, discuteremo sulla sussidiarietà, discuteremo sul modo di reclutare i docenti, sul modo di introdurli, ecco, nel mondo della scuola, quindi i percorsi e anche i cosiddetti concorsi, e a partire anche da quella che è uno dei punti fondamentali, la libertà di scelta educativa di cui prima si accennava, però all'interno anche di una visione della scuola italiana dentro un percorso europeo, quindi un'attenzione anche alle indicazioni dell'Europa. Quindi cercheremo di trovare con gli addetti al lavoro, ecco, un momento di riflessione in maniera tale che possa anche questo contribuire a quel processo che prima accennavamo, visto che nel nord Italia c'è anche questa tradizione e c'è anche questa possibilità di dialogo realizzato in questi anni, in maniera tale che di fatto le alleanze educative, specialmente con le organizzazioni sindacali, istituzionali e politiche, possa portare buon frutto. 6 luglio, appuntamento a Bergamo con questo seminario di studio per quanto riguarda il Nord Italia. Dopo l'ultima pausa entriamo invece nel livello regionale diocesano. Dal mondo della scuola. It was already song and so were we dancing. Nay na na na. Nay na na na. Oh Lord, did we have a ball, still singing, walking down that hall, that nay na na na. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, che concluderà il suo percorso la settimana prossima con alcune studentesse in studio con noi per raccontare esperienze scolastiche e parascolastiche, con Don Edmondo Lanciarotta, che è responsabile dell'ufficio scuola educazione e università per la Conferenza Episcopale Triveneta. Stiamo facendo un bilancio annuale, abbiamo parlato delle prospettive, degli appuntamenti a livello nazionale e di Nord Italia. Arriviamo al livello di Conferenza Episcopale del Triveneto, dove sappiamo che nel corso dell'anno, l'abbiamo raccontato, ci sono state iniziative, prese di posizione, sappiamo che molte scuole paritarie purtroppo sono entrate in difficoltà, iscrizioni che sono calate, chiusura in vista per il nuovo anno. Qual è la situazione, quali sono gli appuntamenti e le iniziative? La situazione è particolarmente delicata proprio per mantenere il pluralismo educativo e scolastico. L'attenzione continua da parte della Conferenza Episcopale, attraverso anche il Comitato della Parità, attraverso le presidenze delle aggregazioni delle scuole paritarie cattoliche, in dialogo anche con gli organismi regionali scolastici e anche quelli della Regione, tenendo conto anche della specificità veneta e del Friuli Venezia Giulia e del Trentino. Quindi il dialogo continua. Speriamo che questo possa portare anche una maggiore anche sensibilizzazione e maggiore anche presenza, ecco, della responsabilità che tutta la comunità cristiana, che tutte le parrocchie, che tutte le diocesi hanno, ecco, nell'annunciare il Vangelo anche attraverso il mondo della scuola, che non demordino, che non mollino, diciamo, l'impegno, che non lasciano, ecco, e non abbandonino il campo della scuola, a partire appunto dalle scuole capillarmente presenti, le scuole paritarie, le scuole dell'infanzia presenti nel nostro territorio, e quindi l'azione continua. A riguardo è previsto per ottobre, ecco, una giornata, ecco, di studio, di riflessione, che vede coinvolti, ecco, l'obiettivo è quello di realizzare a livello del Triveneto il laboratorio che è stato realizzato a livello romano, e quindi si sta avviando una preparazione affinché, oltre coloro che sono impegnati nell'ambito della scuola, ma anche la famiglia, quindi la pastorale familiare, anche i giovani, e quindi il servizio della pastorale giovanile e anche il mondo del lavoro, insieme riflettere, ecco, sulla sfida educativa, e per creare appunto le alleanze educative. Questo è un impegno che come Triveneto ci stiamo preparando, in maniera tale che poi da questo incontro di studio, di riflessione con i responsabili dei vari ambiti, famiglia, scuola, giovani, lavoro, ecco, poi noi possiamo a livello diocesano poter avviare per il nuovo anno pastorale delle iniziative, delle proposte, degli incontri finalizzati appunto alla sensibilizzazione delle comunità cristiane su questo ambito, a promuovere il protagonismo delle realtà aggregate, in maniera tale da contribuire alla estensione il più possibile, ecco, di questo impegno, ritenendo per la Chiesa, come dicevamo all'inizio, importante l'impegno per l'educazione in vista appunto anche dell'appuntamento della prossima primavera. Quindi cercheremo di dare delle indicazioni, cercheremo di coordinare questo lavoro di sensibilizzazione, in maniera tale da poter fare in modo che sempre di più l'attenzione della scuola e dell'educazione sia presente nelle nostre comunità cristiane. Sempre in dialogo anche, ed è importantissimo, fondamentale, credo anche molto proficuo, con le amministrazioni locali, i comuni, da una parte, che conoscono benissimo la realtà dei loro paesi, dei loro cittadini, fin dalla più tenera età, e anche poi a livello regionale. Sì, questo dialogo poi è fatto a vari livelli. a livello generale appunto con la commissione, poi c'è il livello con il comitato parità e poi c'è il dialogo costante con delle singole aggregazioni, la FISM, la FIDA e l'AGESC, eccetera, che dialogano a livello così con la loro responsabilità con i comuni, con l'ANCI e con gli assessorati specifici sia provinciali che regionali, ecco, per estendere la questione. Però il problema è che abbiamo riscontrato in questi ultimi anni è che a livello di cultura siamo riusciti a presentare la questione, l'urgenza, l'importanza, manca la adeguazione politica, manca la scelta politica, manca la volontà politica, e quindi in questa anche fluttuazione, in questa frammentazione e in questa anche non stabilità politica che vediamo a livello nazionale, poi vediamo a livello regionale e poi vediamo anche a livello, diciamo, provinciale, questo ostacola ulteriormente, ecco, il percorso dell'attenzione e anche delle scelte politiche sulla scuola. Ecco il motivo per cui il lavoro della sensibilizzazione a livello delle comunità cristiane, a livello di opinione pubblica, ritiamo sia importante per far crescere quella che da tanti anni diciamo la cultura della scuola, in maniera tale che capiscano che non ci dovrebbero essere spartizioni, ecco, di settore, di ambiti politici sulla formazione, sulla scuola e sull'istruzione. Ci dovrebbe essere invece una convergenza unitaria, ritenendo la scuola prioritaria e l'educazione fondamentale. Si spera che questo possa avvenire. E noi daremo il nostro contributo per quanto possibile anche con la prossima stagione, la quale, Don Edmondo, sì, ci diamo già appuntamento dalla fine di settembre. Ecco, io ringrazio veramente voi di cuore per la vostra disponibilità, per l'opportunità, pazienza che ci avete anche accordato, e senz'altro il prossimo anno, con il nuovo anno scolastico, saremo qui insieme con tutti voi. Grazie a voi che ci avete ascoltato. Grazie a Don Edmondo, buona estate. La settimana prossima però torniamo con l'ultima puntata. È di Daici Regia, Mirko Cavallini Studio. Buon proseguimento. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.